Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. L'internazionalizzazione senza dimenticare l'origine. I casi di Caloni Trasporti e Olimpia Splendid. Di Anna Marino. Nuova puntata speciale di Voci di Impresa della serie di appuntamenti in cui, in collaborazione con Intesa San Paolo, Radio 24 racconta le storie di aziende italiane di successo in varie zone d'Italia. Dopo l'evento Sharing Italy, in cui più di 150 imprenditori si sono confrontati su soluzioni di sviluppo concrete, siamo andati alla ricerca di case history dove lo spirito imprenditoriale è riuscito a trasformare piccole botteghe, laboratori e stabilimenti in aziende di respiro internazionale, grazie a strategie vincenti basate su elementi come la filiera, l'internazionalizzazione, la promozione del Made in Italy nel mondo e l'innovazione. Storie di donne, uomini e imprese, ma anche di territori che raccontano esperienze di successo che possono essere di esempio per una crescita economica che si diffonda in tutto il paese. La prima storia proviene dal territorio di Monza e Brianza, dove ha sede Caloni Trasporti, una realtà al 100% italiana, specializzata nel trasporto nazionale ed internazionale di merci su strada e nella logistica. Ha una flotta in grado di soddisfare ogni richiesta, grazie alla capillare organizzazione sul territorio italiano ed europeo. Una rete di partner selezionati garantisce il collegamento con 58 destinazioni estere, con il supporto di magazzini e poli distributivi in Europa. Caloni Trasporti ha circa 250 dipendenti, ha un fatturato che si aggira sui 50 milioni di euro e movimenta oltre 5 milioni di colli all'anno, dai casalinghi agli alimentari alla cancelleria. Ci racconta le origini dell'azienda Nicola Caloni, presidente di Caloni Trasporti. L'azienda nasce con mio nonno prima della Seconda Guerra Mondiale, 1939 per essere precisi, essendo io parte della famiglia, uno che rappresenta insieme ai miei fratelli e cugini la terza generazione, ho sentito i racconti del nonno, del papà, dello zio, che iniziano come ippotrasportatori, cioè quei cavalli in un ambito molto ristretto, quello brianzolo, e nei dintorni di Monza. Caloni Trasporti punta su una strategia di internazionalizzazione nei comparti della distribuzione e del deposito merci. Da Monza alla Brianza, dalla Brianza all'Italia, dall'Italia all'Europa. Negli anni 50 ha allargato il raggio d'azione affermandosi come corriere più richiesto per i collegamenti tra Liguria e Lombardia. Negli anni 70 è arrivata a coprire tutto il territorio italiano. Negli anni 90, in continua ascesa, ha aperto una nuova sede a Seregno, un regalo per i 50 anni di attività. Una crescita che ha portato sempre più verso mercati esteri. Per costruire un grattacielo bisogna fare buone fondamenta. Quindi c'è stato un lungo periodo di crescita contenuta che a un certo punto ha permesso appunto uno slancio diverso. Diciamo che la nostra crescita ha iniziato a essere repentina a partire dagli anni 2000. La fase fondamentale è stata quella di allargare a un management esterno alla famiglia la nostra competenza. Quindi ben venga sempre la tradizione familiare, la passione che si mette nel proprio lavoro, nella professione, però a un certo punto ci si rende conto che non tutto può nascere da te stesso. Da tutta Italia e per tutta Italia, con 60 magazzini dislocati praticamente in ogni provincia, abbiamo un interscambio con flussi di andata e ritorno. E da qualche annetto guardiamo l'Europa, quindi abbiamo non ancora una rete così consolidata, però comunque sia offriamo 58 destinazioni estere ai nostri clienti, quindi non poche. Noi vendiamo in tutto il mondo, dall'Australia a Cuba, all'Arabia Saudita, alla Svezia, insomma, tanto per citarne alcune. Devi essere convinto di portare il tuo valore adattandolo alla realtà specifica, non devi pretendere di applicare il tuo crochet a 5.000 km qua perché non funziona. Nell'ottica della diversificazione della professionalità aziendale, nel 2015 ha rilevato il marchio OMG, presente da 50 anni nel settore della produzione, commercializzazione, manutenzione e noleggio di carrelli elevatori elettrici a livello mondiale. Da 10 anni è presente nel settore della commercializzazione e manutenzione di porte rapide industriali e nella verniciatura e sabbiatura di materiale ferroso. Ma oltre alla funzionalità, per Nicola Caloni è importante anche l'estetica, che si trasforma in vantaggio competitivo. questa nostra azienda, che poi è collegata con altre aziende del nostro gruppo, in particolare OMG, che è un'azienda che produce carrelli elevatori e vende in tutto il mondo, hanno come fil rouge l'arte, e quindi questa nostra idea di fare gli imprenditori, come dire, in modo dinamico e non standardizzato, si è abbinato bene col concetto dell'arte, che è l'espressione più dinamica e più gratificante che c'è, secondo me, da parte dell'uomo. E i nostri mezzi hanno in giro per l'Italia questi disegni, queste opere, mi permetto di dire, fatte da artisti sia sconosciuti che abbastanza noti, che valorizzano i nostri mezzi. Quindi non è solo un discorso di efficienza, ma anche di bellezza che portiamo in giro per l'Italia. Noi abbiamo un artista di riferimento che è Cinzia Pellin, che è la nostra testimonial, e che quindi ci ha dato il permesso, la ringrazio, di, come dire, esporre delle rappresentazioni dei suoi quadri sui nostri mezzi. Quindi se vedete dei visi femminili molto espressivi e accattivanti, vuol dire che state seguendo un camion Caloni. Attenzione ai giovani e al welfare, con progetti e piani mirati. Noi abbiamo un ufficio apposito che abbiamo chiamato C-Lab, Caloni Laboratorio, dove c'è una commissione tra professionisti, quindi responsabili marketing, giornalisti, social media manager, grafici, che interagiscono con questi stagisti. Ne abbiamo di solito dai 6 mesi ai 12 mesi, anche che arrivano dall'estero, e che come dire, portano avanti tutte le nostre iniziative correnti, dando però anche quel apporto che non potrebbe nascere da noi stessi, deve arrivarti dal mondo che ti circonda. E sono anni che proviamo a introdurre qualche incentivo, qualche così attività di welfare a favore dei nostri collaboratori, e abbiamo visto che non sempre incontra il gradimento. Ma perché? Perché probabilmente, tutti dobbiamo imparare, abbiamo proposto qualcosa che non incontrava le esigenze delle persone. Abbiamo un po' affinato quindi la nostra offerta, un ventaglio di proposte molto articolato e molto mirato sulla nostra realtà e non tanto in generale, e che quindi attraverso questa convenzione, diciamo, ci ha permesso di proporre dei benefici che vanno da quelli sanitari a quelli anche monetari, diciamo, di convenzione per i conti correnti, i mutui agevolati. Stiamo cercando davvero di dare non un cliché determinato, ma un qualcosa che soggetto per soggetto incontri quello che è l'esigenza della singola persona. La seconda storia è quella di Olympia Splendid S.p.A., un gruppo industriale fondato nel 1956 e oggi presente in più di 45 mercati mondiali. La sede di Cellatica, nel Bresciano, rappresenta l'headquarter del gruppo. Lo stabilimento di Gualtieri, in provincia di Reggio Emilia, è il polo logistico sul territorio nazionale. Agli stabilimenti italiani si aggiungono le filiali commerciali di Shanghai, Madrid, Parigi e San Paolo. Internazionalizzare è la parola d'ordine, come spiega Roberto Saccone, presidente e amministratore delegato. In realtà è stata una necessità. L'azienda ormai tanti anni si occupa di un settore, quello della climatizzazione, che ha avuto nel mercato italiano un grandissimo potenziale di sviluppo. Potenziale che però negli anni della crisi si è un po' esaurito, per quanto noi già fossimo orientati al tema dell'esportazione, perché abbiamo fin dall'inizio esportato i nostri prodotti. Però a questo punto abbiamo dovuto considerare che le esportazioni e l'internazionalizzazione in particolare diventavano un'esigenza vitale. Quindi abbiamo cominciato a studiare quali erano i mercati più interessanti e abbiamo cominciato a presidiarli attraverso delle filiali, che secondo noi è un po' il modo migliore per essere presenti sul mercato. Il gruppo occupa complessivamente 104 dipendenti e ha un fatturato che si aggira intorno ai 50 milioni di euro. Ecco la strategia per l'internazionalizzazione. La climatizzazione evidentemente richiede climi adeguati, pertanto i mercati interessanti sono anche abbastanza facili da individuare, nell'ambito europeo sono quelli del sud Europa, per cui abbiamo cominciato con una filiale in Spagna, che è stato per lungo tempo il secondo mercato a livello europeo, poi la crisi l'ha quasi, non dico azzerato, ma certamente ridotto enormemente. Siamo presenti in Spagna già, in Francia, che è un altro mercato che si è sviluppato molto a partire dal 2004-2005, mentre negli altri mercati europei operiamo attraverso distributori. E le scelte aziendali si riflettono sui numeri dell'azienda. quest'anno chiuderemo con un incremento di circa il 10-12%, con un consolidato attorno ai 62 milioni di euro, superando con ciò una barriera, quella dei 60 milioni che ci eravamo prefissi di superare nel corso del 2016-17-18. Ci siamo arrivati in anticipo, abbiamo un piano di sviluppo triennale che ci dovrebbe portare a superare gli 80 milioni di euro. Quest'anno l'esportazione sarà circa 27 milioni sui 62, quindi con un'incidenza di oltre il 40% dell'estero. E di questi 27 milioni metà sono fatti con le filiali e metà con distributori. E anche in tempo di crisi il legame con il territorio e i motti aziendali sono stati i messaggi forti che hanno aiutato l'azienda a tenere. Meis idea che tosser, che significa appunto che è molto meglio sudare, quindi faticare, piuttosto che tossire, e cioè star male. Ecco, durante i periodi della crisi certamente si tossiva e oggi si suda, ma sudiamo volentieri. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.